GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. A Udine, il giorno dopo la sfilata di 85.000 penne nere che con il simbolico passaggio del bastone alla città di Vicenza ha concluso sotto la pioggia, ma con una grande partecipazione di pubblico, la 94esima adunata nazionale degli alpini. Bilancio positivo anche sul fronte della sicurezza messa in campo dalle forze dell'ordine per assicurare l'incolumità di pubblico e partecipanti. Centinaia le chiamate di soccorso sanitario durante la adunata, ma solo un intervento è stato per un caso grave. Ha funzionato il piano di gestione delle emergenze messo in campo da ANA, Croce Rossa e Sistema Sanitario Regionale. Per quanto riguarda il trasporto pubblico, non ci sono state criticità nell'assicurare l'arrivo e il deflusso delle penne nere e di quanti hanno assistito al grande evento. Nel mese di maggio è tornato a piovere in gran parte della regione, mitigando così le conseguenze del lungo periodo di siccità dei mesi scorsi. Giornata di sciopero dei lavoratori delle dogane che chiedono di implementare il personale dimezzato negli ultimi anni. Attraverso i controlli della dogana passa tutto il materiale proveniente dai paesi extraeuropei, cioè il 99% della merce che arriva a Trieste. Ancora una tentata truffa ai danni di un'anziana a Trieste da parte di un sedicente tecnico del gas, presentatosi a casa della donna con un tesserino falso. Si scalda l'ambiente del basket regionale nel giorno dell'atteso derby tra Udine e Cividale, che questa sera si affrontano al Pala Carnera per i play-off promozione. Le 12:31 minuti e 45 secondi, in questo istante avete appena sentito i titoli di questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di lunedì 15 maggio, condotta da Giorgio Bears e Dario Ronzoni. Udine si è risvegliata stamane con un altro volto, il giorno dopo la sfilata di 85.000 penne nere che, con il simbolico passaggio del bastone alla città di Vicenza, destinata a ospitarla nel 2024, ha concluso ieri, sotto la pioggia ma con una grande partecipazione di pubblico, la 94esima edizione della adunata nazionale degli alpini. Un evento straordinario per ogni città che lo ospita annualmente e che in particolare nel caso del capoluogo friulano si chiude con un bilancio più che positivo, portando con sé un ricordo particolare anche per la ottima organizzazione messa a punto da tutti i soggetti interessati, in primis dall'ANA, dal Comune, ma anche dalle forze dell'ordine, dai tanti volontari che hanno assicurato la piena riuscita della manifestazione per tutto lo scorso fine settimana. E oggi tutta la città, dopo le operazioni di smontaggio di tende, palchi e la pulizia delle strade che è stata effettuata già di notte, ha ripreso la sua normale quotidianità. Il giorno dopo la adunata degli alpini, la città è pulita. Diverse persone che intervistiamo si dicono meravigliate, visto il grande afflusso di penne nere di questi giorni. Come spiega Marco Botosso, direttore operativo della NET, la municipalizzata dei rifiuti per Udine, si è intervenuti con più squadre al lavoro H24 già da venerdì e con la collaborazione di ditte esterne. I dati si stanno ancora raccogliendo, ma aggiunge, nei 4 giorni di festa è stato prodotto quasi il doppio dei rifiuti rispetto a un Friuli Doc. Un ottimo indicatore anche di come sono andati gli affari, raccolta più spazzatura la domenica mattina rispetto a questa mattina. Effettivamente, sabato sera era difficile perfino camminare per il centro, tanta la folla. In piazza Primo Maggio si iniziano a smantellare gli stand, si incontrano macchine con tende e sacchi a pelo assicurati sul tetto che lasciano la città. Qua e là ci sono gruppi di penne nere che finiscono di smontare la accampamento, come gli alpini di Parma che hanno preferito non mettersi in strada a sera inoltrata, visto il lungo viaggio. Incontriamo anche una decina di ex commilitoni di Chiari, provincia di Brescia. Si erano sistemati in un'area verde messa a disposizione da un privato, zona sud della città. Uno di loro sta ancora togliendo il fango dagli stivali. Per lasciare tutto pulito, avevano noleggiato anche 2 WC chimici a loro spese. La principale azienda che ha installato bagni chimici a Udine, oltre 1.300 progettati per contenere il consumo di acqua, ne ha già iniziato lo smontaggio, ma ci vorranno almeno 15 giorni. Un alpino di Milano si fa un giro in centro con la moglie, ci godiamo finalmente un po' di sole, ci dice. Estremamente soddisfatto il presidente dell'ANA di Udine, Dante Soravito De Franceschi, che ha ringraziato tutti coloro che hanno reso possibile l'evento e chiesto al comune di mantenere l'imbandieramento della città fino alla festa della Repubblica. La donata si è ufficialmente conclusa ieri sera, poco dopo le 20, con il passaggio ufficiale della stecca a Vicenza. Ospiterà la 95esima edizione l'anno prossimo. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Un bilancio tutto sommato positivo anche sul fronte della sicurezza, quello assicurato dalle forze dell'ordine, che hanno messo in campo un apparato funzionale e allo stesso tempo discreto per vegliare sull'incolumità di pubblico e partecipanti all'evento. Il giorno dopo la grande adunata che ha visto sfilare oltre 80.000 penne nere, a Udine si tracciano i primi bilanci. Una manifestazione contraddistinta dalla pioggia, con un'organizzazione che ha retto all'impatto di migliaia di presenze. Massimo Marchesiello, prefetto di Udine. Credo che sia un'impressione generale, condivisa da tutti, e ovviamente di questo, come dico sempre, ringrazio la cittadinanza, la comunità udinese che ha accolto con piacere e con affetto gli alpini. Credo che sia stato un abbraccio reciproco. Per il resto hanno tutti i soggetti di volta in volta coinvolti dato ottima risposta, anche le eventuali criticità, quindi mettendo sul campo tutte le potenzialità anche per eventuali disagi che potranno crearsi anche all'interno del sistema dell'energia elettrica, come della telefonia, addirittura della fornitura di farmaci, come anche degli sportelli banco. Quindi criticità che abbiamo in parte previsto e che per fortuna non si sono verificate. È stato veramente un abbraccio corale, è stata una bella impressione di Italia unita e questo è veramente stato un bel messaggio che di questo momento abbiamo bisogno. Uno spiegamento importante di forze dell'ordine per garantire la sicurezza dei cittadini e anche delle numerose cariche istituzionali che hanno voluto omaggiare la 94esima adunata degli alpini. Alfredo D'Agostino, questore di Udine. Solamente ieri abbiamo impegnato qualcosa come 600 unità almeno, per appunto far fronte a tutte le esigenze connesse alla imponente adunata degli alpini. È andata decisamente bene, in questi 3 giorni che hanno interessato la città di Udine non abbiamo registrato episodi particolari, se non quelli che possono essere registrati comunque in un qualsiasi fine settimana in questo centro. Abbiamo registrato solo denunce per borseggi, ma in numeri realmente esigui. Intanto individuate e denunciate 3 donne, 2 residenti fuori regione e 1 a Udine, che avevano affisso materiale contro il generale Figliuolo e gli alpini. Alle donne sono state anche sequestrate volantini e adesivi. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Sono state centinaia le chiamate di soccorso sanitario durante la adunata, ma solo un intervento si è rivelato un caso grave. Ha funzionato il piano di gestione delle emergenze, che ha visto agire in coordinamento Associazione Nazionale Alpini, oltre che Croce Rossa e Sistema Sanitario Regionale. Qualche malore, piccoli traumi. La adunata degli alpini di Udine si è conclusa senza emergenze dal punto di vista sanitario. Da giovedì, primo giorno dell'evento, sono stati 227 gli interventi tra i partecipanti. 37 persone sono state ricoverate all'ospedale di Udine e in quelli dei dintorni. L'infarto di un uomo è il caso più grave. Amato De Monte, direttore del SORES, il servizio regionale di emergenza sanitaria. Abbiamo avuto 61 codici gialli. Ci sono stati 2 codici rossi, un arresto cardiaco nel pieno della manifestazione che è stato immediatamente soccorso dalle squadre a piedi, poi integrato dall'intervento del medico del PMA, trasportato rapidamente in ospedale e il giorno dopo il paziente è uscito perfettamente recuperato dalla terapia intensiva universitaria di Udine dove era stato ricoverato. Alla regia dei soccorsi c'era la sala operativa mobile, sezione distaccata Udine della centrale regionale di Palmanova. Tutta la manifestazione di Udine, tutte le richieste del soccorso di Udine venivano coordinate e arrivavano al centrale mobile saltando e quindi non intasando la centrale di Palmanova, che è continuato invece a gestire l'emergenza regionale. Dedicati all'assistenza sanitaria erano l'ospedale da campo al Parco Moretti, 7 posti medici avanzati e 15 squadre a piedi composte da 3 volontari, ognuna con un defibrillatore automatico. Un sistema che ha visto il coordinamento tra la sanità alpina, in cui erano impegnate quasi 180 persone tra medici, infermieri, personale logistico e volontari, la Croce Rossa regionale con 180 addetti e una 60ina di infermieri del 118 regionale. Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. E per quanto riguarda il trasporto pubblico, non ci sono stati particolari criticità nell'assicurare l'arrivo e il deflusso delle penne nere e di quanti hanno assistito alla grande sfilata. È ancora presto per avere tutti i dati definitivi dei trasporti che hanno ruotato attorno alla adunata. È apparso evidente già occhio il successo riscosso dalla ferrovia con il grande movimento di gente alla stazione. Trenitalia ha messo a disposizione praticamente il doppio dei mezzi normalmente operativi. In tutto erano 235 treni diretti in partenza da Udine. La stima è di 50.000 passeggeri per il sabato e di 20.000 per la domenica, fanno sapere da Trenitalia. Arriva Udine, l'azienda del trasporto pubblico locale consorziata nel TPS RTL Friuli Venezia Giulia renderà noti i dati dei biglietti venduti solo nei prossimi giorni. Il direttore d'esercizio Emilio Corradazzo sottolinea il grande lavoro, soprattutto il sabato sera, quando gli autobus hanno viaggiato fino alle 2 di notte per portare gli alpini dal centro verso i loro luoghi di pernottamento, servizi notturni attivi anche verso la provincia. Solo per quelle ore si stimano circa 30.000 passeggeri. Sono mancati rispetto alle attese un po' i visitatori, probabilmente a causa del maltempo, sostiene Corradazzo. Per esempio, il principale parcheggio scambiatore, quello di Campoformido, non si è riempito, sia per un afflusso minore del previsto, sia per la fanghiglia che ha ricoperto il campovolo. Da lì e da altri luoghi, come il parcheggio dello stadio, arriva ha messo a disposizione navette. Potenziato anche il servizio detto Via Venete, che ha messo in turno lo stesso numero di operatori mobilitati in caso di esodo estivo. Traffico intenso, qualche rallentamento, ma non sono state segnalate code o particolari disagi. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. È chiusa quest'ampia pagina dedicata alla adunata e alla sfilata degli alpini a Udine, e diamo ora uno sguardo alle condizioni del meteo. Il cielo è attualmente da sereno a poco nuvoloso sulla regione. Queste le temperature registrate poco fa. A Trieste ci sono 15 gradi e 5 decimi, a Udine e Gorizia 18 gradi, a Pordenone 17 gradi e 5 decimi. A Tolmezzo 16 gradi e 5 decimi, a Forno di Sopra 14 gradi e mezzo, 13 gradi e mezzo a Tarvisio, 10 gradi e 5 decimi a Sappada, 9 gradi a Piancavallo. Sul Monte Zoncolanne e sul Monte Lussari 6 gradi e 5 decimi, 16 gradi a Grado, 15 gradi e 5 decimi a Lignano. Le previsioni per il pomeriggio: sarà possibile qualche rovescio locale temporale, specie sulla fascia prealpina. Venti a regime di brezza, ma in serata inizierà a soffiare bora da moderata sostenuta, specie sulla costa, più forte poi nella notte. Per domani cielo da nuvoloso a coperto con possibili temporanee schiarite su pianura e coste orientali. Saranno probabili piogge intermittenti da moderate ad abbondanti, anche intense sulle Alpi Giulie e sulle Prealpi Carniche, più deboli invece sulla costa. Soffierà bora forte per gran parte della giornata, specie sulla costa, con probabili raffiche intorno ai 100-110 km orari a Trieste. Vento forte da est e nord-est anche in quota. Quota neve oltre i 1800-2000 metri. Il mese di maggio si sta caratterizzando per il ritorno della pioggia che nei giorni scorsi ha interessato gran parte della regione e che si spera abbia così mitigato almeno in parte le conseguenze del lungo periodo di siccità dei mesi scorsi. Le piogge dei giorni scorsi permettono di affrontare la stagione irrigua con maggiore serenità. Da inizio maggio è piovuto più della media del mese, specie in pianura, mediamente un centinaio di millimetri, e anche sul Friuli occidentale, che aveva maggiormente sofferto rispetto alle zone orientali della regione, con il dato massimo di 270 millimetri a Piancavallo, dati ARPA. L'acqua caduta ha ripristinato l'umidità del suolo per le colture in un quadro migliore dello scorso anno, quando a quest'ora erano già iniziate le bagnature anticipate. Il consorzio di bonifica Cellina Meduna sta invasando acqua nei bacini montani, non tutta però quella che si potrebbe accumulare. Il presidente Walter Colussi. Attualmente abbiamo nella Val Cellina circa 22 milioni di metri cubi tra Barcis e Ravedis, mentre che potrebbero essere abbondantemente di più se Barcis non avesse il problema della ghiaia. In più è in atto questo tavolo tecnico per provvedere il più presto a eventuale possibilità di sghiaiamento. Mentre sulla parte della Val Tramontina abbiamo circa oltre 30 milioni di metri cubi d'acqua, quindi più del doppio rispetto all'anno scorso. Questo ci permette di affrontare una stagione irrigua prevista dal 1 giugno con una certa serenità e un certo ottimismo. Resta invece del tutto aperto il problema falde. Vedremo nei prossimi giorni quale sarà l'effetto delle piogge e anche quelle previste per la giornata di domani e dopodomani sulle falde. Attualmente comunque abbiamo il dato che non si stanno abbassando, quindi sono su una certa stabilità. Questo certo non è sufficiente, perché pensare di recuperare circa i 500-600 mm che mancano dell'anno scorso in falda non si recupera sicuramente con una pioggia di 120-130 mm caduti nell'ultimo periodo. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. denunciato a Trieste dopo una segnalazione da parte di un'anziana. La donna aveva subito un probabile tentativo di truffa da parte di una persona che si era presentata come tecnico del gas, esibendo un tesserino e affermando di dover fare delle verifiche su eventuali perdite del sistema e installare uno strumento apposito del costo di 200 euro. Gli agenti, giunti sul posto, hanno intercettato nei pressi dell'abitazione della donna un uomo corrispondente alla descrizione, con tanto di tesserino appeso al collo, e hanno proceduto ai dovuti controlli. Alla luce di quanto dichiarato e sulla base di ulteriori accertamenti, è stata sporta denuncia per tentativo di truffa. La divisione anticrimine della questura ha emesso nei confronti dell'uomo, risultato non residente in città, un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno della durata di 3 anni. File di camion ai varchi d'ingresso al porto di Trieste. Lavora solo il personale di dogana precettato, perché oggi è lo sciopero dei lavoratori che chiedono di implementare il personale dimezzato negli ultimi anni. Attraverso i controlli della dogana passa tutto il materiale proveniente dai paesi extraeuropei, cioè il 99% della merce che arriva a Trieste. Mentre il porto di Trieste cresce da anni per traffico di merce, si parla di un più 400%, l'attività della dogana è costretta ad una pesante riduzione di attività a causa della carenza di personale. Se nel 2016 i doganieri a Trieste erano 160, oggi sono 99, di cui almeno 5-6 pensionabili quest'anno. Sciopero oggi dei lavoratori con incontro in piazza Unità con il prefetto. La scorsa settimana astensione di tutte le forme di adesione allo straordinario, che ha comportato una forte riduzione dei servizi esterni. Noi siamo con Giuseppe Vetrone della FLP, le chiedo, lei dice questo significa in qualche modo boicottare tante attività di pubblica sicurezza, tra cui cosa? Ma più che boicottare, noi lanciamo un grido d'allarme a tutta la cittadinanza, a tutti i contribuenti, per non restare soli, anche perché quando non riusciamo più a garantire i servizi, noi vogliamo dire semplicemente che non è colpa nostra, probabilmente è un apparato che non risponde alle esigenze del cittadino e del contribuente. Anche perché poi dobbiamo segnalare che i famosi 100 miliardi circa di lotta all'evasione fiscale annuale, di cui tanto si parla, poi alla fine si riduce che le agenzie fiscali, tra queste l'agenzia delle dogane, non è in grado di fare questa attività, e questo è un peccato per le casse pubbliche. Parliamo di controlli sui farmaci, controlli sui prodotti alimentari, controlli sugli animali, qualsiasi tipo di controllo, lo spieghi? Allora, guardi, l'agenzia delle dogane tocca tutto quello che un cittadino, un contribuente può avere anche a disposizione personale. Mi spiego meglio. Noi tutti usiamo per esempio i carburanti, è sotto il controllo dell'Agenzia delle Dogane. L'elettricità, l'energia elettrica, il gas, tutto quello che ci circonda, bene o male, è tutto controllato dall'Agenzia delle Dogane. Però oramai siamo uno sparuto. Siamo rimasti in pochi e tutte queste attività di vigilanza, di controllo importantissime per le casse dello Stato, ecco, vengono fatte meno o quantomeno vengono fatte in modo molto ridotto, è tutto qua. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. L'imprenditore friulano Piero Petrucco sarà il nuovo presidente della Federazione dei Costruttori Europei, un'associazione che rappresenta 3 milioni di imprese pari a 1.600 miliardi di fatturato e all'11% del PIL di 27 paesi europei. Una nomina importante che diventerà operativa con l'Assemblea Generale del 2024 e che durerà fino al 2026. Cosa significa per l'Italia e anche per il Friuli Venezia Giulia questa nomina? Per l'Italia significa poter cercare di, per quanto possibile, seguire nella miglior maniera possibile l'evoluzione della direttiva sull'efficientamento degli edifici. È un tema molto rilevante, è di completa derivazione europea e necessiterà un grande equilibrio fra la necessità di fare questa riqualificazione, ma anche la necessità di tener conto, per esempio, della realtà italiana, dove l'84% delle case è di proprietà, e che quindi dovremo trovare un sistema di incentivi adeguati e funzionante per consentire questa cosa. In questo contesto, per il Friuli, credo che sia un'opportunità di poter partecipare in maniera molto diretta a questi temi, a tutela anche della nostra specificità. In ballo c'è anche il tema della ricostruzione dell'Ucraina. Si porrà, quando saranno finite le ostilità in Ucraina, si parlerà, perché si è già cominciato a parlare di ricostruzione, e questo, siccome per il contesto geopolitico che si è verificato sarà un qualcosa di sicuramente molto legato all'Europa e agli Stati Uniti, apre al nostro mondo, all'intera filiera, qui non parlo solo al mondo delle costruzioni, ma dico a tutto il mondo europeo, delle possibilità di intervenire in un senso molto ampio. È un problema economico, ma è anche un problema di sviluppare la comunità europea, considerando anche l'approccio che vuole dare l'Ucraina a questo tema, ovvero usare questa circostanza terribile per portare il suo paese ad uno standard e a una situazione simile a quella dei nostri paesi europei. E dico questo da tutti i punti di vista, dal pensare alle città con sistemi legislativi e con normative corrispondenti a quelle europee, a tutto il resto. Confedilizia Udine si riunisce oggi per discutere sulla nuova tassazione introdotta in regione, l'ILIA, che sostituisce l'IMU. Relatore del convegno sarà Francesco Veroi, esperto tributario responsabile del coordinamento tributario della Confedilizia. Appuntamento a Palazzo Toriani alle 17.30. È cominciato oggi al Bearzi di Udine la Welding Junior Cup 2023, il concorso nazionale della saldatura, un evento che riunisce 14 ragazzi che gareggeranno per il titolo di miglior saldatore, un'iniziativa che punta a sensibilizzare i giovani sulla figura di un mestiere che è cambiato molto, anche grazie alle nuove tecnologie. Ne abbiamo parlato con Fabrizio Tosti, referente nazionale della CNOS FAP, ossia il Centro Nazionale Opere Salesiane Formazione Aggiornamento Professionale. Qual è lo scopo di questo concorso? Serve per mostrare i nostri capolavori. È tradizione salesiana che risale a Don Bosco stesso partecipare alle esposizioni nazionali. Ecco, noi su quel solco ancora oggi in tutti i settori professionali in questo periodo organizziamo e mettiamo in esposizione i capolavori nostri, che sono soprattutto gli allievi e quindi le eccellenze. In questo caso si tratta del settore della saldatura, che come leggiamo quotidianamente sui giornali è tra le figure più richieste dal mondo del lavoro. Parliamo un attimo della saldatura. Abbiamo visto che c'è un'evoluzione del settore, soprattutto con la robotica e con il digitale. Ci puoi dire qualcosa? Sicuramente è un mondo che si sta ampliando. L'evoluzione è forte. Sarebbe errato pensare alla saldatura come la si immaginava un tempo. La saldatura si è evoluta nella sua tipologia e nei materiali anche utilizzati e nelle tecnologie utilizzate. L'emblema del saldatore sporco, rumoroso, in officine quasi inguardabili è appunto superata. Siamo nella situazione anche di un mondo della saldatura che avviene attraverso la robotica, per cui sicuramente un mondo in forte evoluzione in cui noi tentiamo di star dentro con i nostri percorsi di formazione, in stretta collaborazione con le aziende, proprio per alzare sempre più il livello di professionalità dei nostri allievi. A un anno dalla morte verrà ricordato oggi Don Pierluigi di Piazza con un'eucaristia nella chiesa di Tualis. È stato ricordato già alle 10.30 a celebrare la messa Don Paolo Iannaccone, presidente del Centro Balducci, previsti appunto durante anche la giornata interventi e riflessioni nel percorso dalla chiesa al cimitero con lo scampanio delle campane di Tualis. Altri momenti di ricordo di Don di Piazza alle 18 al Centro Balducci con l'incontro ecumenico di ringraziamento per la vita di Pierluigi accompagnati dal gruppo di Taizé, e al centro di accoglienza a Paluzza sempre alle 18 con un momento di riflessione. Sarà presente il coro dei ragazzi di Colugna, paese in cui è stato diacono. In occasione della giornata mondiale della sindrome di Ehlers-Danlos, la fontana del Nettuno di Piazza della Borsa a Trieste sarà illuminata di arancione, come richiesto al comune dall'ANSED, l'Associazione Nazionale Sindrome di Ehlers-Danlos. E siamo allo sport. Basket in Serie 2, il giorno dell'atteso derby regionale per i play-off promozione girone gold tra Udine e Cividale. Si gioca alle 20 al Palacarnera, al meglio delle 5 gare. Per la sfida con il gialloblu, l'APU avrà a disposizione anche il neoacquisto Emanuele Terri, arrivato a Udine giovedì scorso e reduce da un'esperienza di 5 mesi alla Pallacanestro Trieste. Lo scisma d'Oriente del basket friulano ha origine nel 2020. Per dissidi con il presidente Pedone, l'ex general manager Davide Mikalic porta via l'APU qualche sponsor e crea gli Eagles Cividale. Nelle due stagioni successive i bianconeri raggiungono due finali senza mai riuscire a salire di categoria, mentre Cividale al secondo colpo ce la fa. E derby. Nella stagione regolare finisce 1-1 e le squadre sorprendentemente finiscono a pari punti in classifica all'ottavo e al nono posto. Ai play-off arriva l'incrocio che tutti temevano, ma che in fondo tutti volevano. Alberto Martelossi, direttore tecnico APU. Sembra incredibile, dopo in una stagione a 28 squadre, pensare che capitiamo proprio con i più vicini, con i famosi finitimi. Però insomma, prendiamola come una grande festa, prendiamola come una grande festa della pallacanestro in questo momento, direi friulana, ecco. E quindi poi facciamo in modo che sia ricca di eventi, facciamo in modo che sia ricca di pathos e che poi speriamo ci sia anche una bella pallacanestro consistente, dura, come piace durante i playoff. L'un contro l'altro armati, insomma, consapevoli di avere radici comuni. Stefano Pilastrini, allenatore Gesteco Cividale. Ma la squadra è pronta a una grande festa, è una festa per la società perché si è guadagnata, tutti ci siamo guadagnati questo post season, questo fuori stagione, questo extra bellissimo, è una festa per i tifosi, è una festa per i giocatori, è una festa per lo staff tecnico, per tutti, per poter andare oltre i propri limiti, per poter andare a misurarsi contro una squadra straordinaria, contro una squadra costruita con giocatori che hanno vinto scudetti, che hanno fatto giocate in nazionale, che hanno partite in A1, che hanno fatto tante promozioni, e noi siamo tutti esordienti. A fine serie rimarranno probabilmente gli abbracci tra i tifosi amici. I 15 chilometri che separano le due sedi societarie, invece, diventeranno 1000. Udine, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Annunciata ufficialmente la mappa dell'evento internazionale In City Golf Trieste 2023. Manifestazione in programma il 19 e 20 maggio nel centro cittadino, a sfidarsi tra le 18 buche, alcune particolarmente spettacolari, giocatori di tutto il mondo, in arrivo da Stati Uniti, Slovenia, Portogallo, Austria, Germania, Olanda e naturalmente dall'Italia. Si intitola Identità Fantastiche, la rassegna d'arte che ospita opere create da 10 giovani soggetti con disturbi dello spettro autistico. La mostra, che durerà fino al 27 maggio, è stata promossa dal progetto Riabilitazione ODV insieme alla Regione. Apertura alle 18 nella sala d'arte della Galleria Rossoni a Trieste. E prima di chiudere una notizia di servizio, questa settimana il nodo di Villesse sarà interessato da alcuni lavori che comporteranno alcune limitazioni alla circolazione, alle rampe di accesso e di uscita. Dalle 22 di questa notte alle 5 di domani chi proviene da Trieste sull'A4 ed è diretto verso Gorizia dovrà uscire a Re di Puglia e, seguendo i percorsi alternativi segnalati dalle frecce già gialle, potrà riprendere l'autostrada a Villesse. In questo caso la rampa di accesso dalla A34 provenienza da Trieste verrà chiusa per un intervento di conservazione del cavalcavia e per la sostituzione di un attenuatore d'urto di una cuspide precedentemente danneggiato. Ed è tutto per questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Dario Ronzoni e Giorgio Bearz, che vi parla. Collaborazione tecnica di Riccardo Ostoici e Giampaolo Zucchi. Ha collaborato in redazione Manuel Bussani. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.